Si torna in diretta con Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e tripla www.ondarossa.info per quanto riguarda il nostro sito internet e quindi con la possibilità di usufruire dello streaming. Il nostro telefono è 0649 1750. Ricordo che come ogni anno di questi tempi è arrivata qui Radio La Scarceranda 2021 con annesso quaderno dedicato al carcere, quindi chi volesse può venire qui in radio o andare sul nostro sito e cliccare sul banner specifico e andarsi un po' a studiare anche le altre modalità di riferimento di questa autoproduzione, probabilmente la autoproduzione più famosa di Radio Onda Rossa. Alle 22.30 circa ci sarà 25 o'clock. Saluto Maya e Nicola Locci dalla Sardegna. Quest'ultimo ormai tutti lo sapranno, valente musicista come Stigmate e Hexagonal. Cristiano Bocci di Chemical Resistance, il medico della peste. Sara Capo Fontana e Dario Righi di Progetto No Name. Antonio Zoviet di Omicinio, Veronica qui a Roma. Francesco a Bergamo, Laura sempre dalla Lombardia, Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster che ascolteremo anche questa sera, Roberto Faloci del progetto Phantom Ship, ottima Dark Ambient, Tabula Rasa da Cortina d'Ampezzo. Marco qui a Roma, Antonio Zoviet l'abbiamo già detto, che ci segnala anche il nuovo lavoro di Biosphere, un progetto a noi molto caro. Wurnus Island da Asti, industrial storico. A Roma, Like Wake, anche lui è ormai un pezzo di storia dell'ambient. Fulvio Biondo di Sorologge, presto ci riascolteremo un qualcosa di vecchio di del buon Fulvio. Invece noi andiamo da Anna von Hauswolf, pianista e tastierista svedese, una delle musiciste più interessanti degli ultimi anni a mio modesto giudizio, che ci delizia anche con un nuovo lavoro privo della sua voce, ma nonostante tutto è un album direi molto molto interessante, che vede al centro comunque questo organo preso da una chiesa di Göteborg in Svezia, un album dedicato al parco di Bomarzo che i più conosceranno, vicino qui in provincia di Viterbo. Ci ascoltiamo per l'appunto e non a caso Sacro Bosco e Entering. una buona uscita, devo dire, questa di Anna von Auswolf, si chiama All Thoughts Fly. Anche se, vabbè, questo è un mio parere ovviamente opinabile, io ho preferito altri lavori di questa musicista svedese. Dead Magic, l'ultimo prima di questo, e anche Gli Esordi. Soprattutto Singing from the Grave, un lavoro di 10 anni fa. Qui manca la voce, c'è però la solennità estrema di questo organo. C'è anche uno sfoglio elettronico, diciamo, che viene di tanto in tanto fuori. Anna Michaela Ebba Elektra von Auswolf, un nome un po' pomposo, il nome completo di questa svedese, figlia d'arte del fotografo Carmichael von Auswolf e di Maria, anzi no, Maria von Auswolf è la sorella. Comunque l'ho vista qui a Roma di spalla agli Swans qualche anno fa e devo dire è un ottimo concerto. Mi auguro che lo streaming funzioni. Per quanto riguarda Fulvio Biondo, dato che è a Roma, se ha problemi c'è la cara vecchia radio sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Un saluto a Dario Arrighi. Eccomi qua. Dunque, il 13 novembre del 2004 ci lasciava John Balance dei Coil e 6 anni dopo, sempre di novembre, nel 2010, ci lasciava invece Peter Christofferson, altra colonna di questa splendida avventura che ha nobilitato la scena elettronico-industriale per tanto tempo. E come spesso accade nei casi delle scomparse di ottimi musicisti, escono spesso materiale, diciamo, postumo, in modo più o meno opportuno, ma questo è un giudizio che lascio a voi, ed è un destino che ha coinvolto anche i Coil, per cui abbiamo qui sotto mano un album dell'anno scorso, si chiama Swanyard e contiene molte tracce inedite per quanto riguarda i Coil, delle extra tracks, degli outtakes, delle cose che fondamentalmente erano rimaste fuori dagli album, dal materiale dal 93 al 96 e che, guarda un po', sono venute fuori, sono venute alla luce e se n'è appropriata l'Infinite Fog Productions, un'etichetta russa. Ci ascoltiamo Spastisch e Wursi LK Weir 1993 per i nostri amatissimi Coil. We'll be right back. chiama Swanyard, dunque un doppio CD per quanto riguarda i nostri amatissimi Coil, amati da tutti quelli che ascoltano Prove Tecniche di Trasmissione e Disorder. Intanto vado a salutare Isa da Milano, Gianluca Becuzzi qui a Roma, altra pietra miliare della sperimentazione nostrana, il buon Alessandro Camilletti di Psycho Kinder, del quale menziono Epigrafe, un ottimo lavoro che presto ascolteremo da queste frequenze. Erano delle outtakes, dei brani fino ad ora chiusi, nascosti chissà dove, e guarda un po', se ne è appropriato la Infinite Fog Productions, furbissima etichetta russa che ha stampato più di un disco, diciamo, uscito dopo, postumo. Giustamente viene detto, è bello che magari sbuchino fuori queste cose, ma dato che molto del materiale, diciamo, più famoso è praticamente fuori catalogo, magari ci si dovrebbe concentrare sul fatto di ristampare i CD, diciamo, più significativi. Magari lo faranno in vinile, chissà, dato che il vinile, bene o male, a tratti è preferito al supporto digitale. Sonyard, sentite come prosegue bene, un album che setacceremo alquanto in queste settimane. La Next Place Sounds Group intanto va avanti nello sfornare compilation su compilation, e nel 2020 ne è uscita un'altra altrettanto interessante. Eravamo rimasti alle vibrazioni provenienti dai Balcani, adesso c'è Iranian Music Survey Anthology of Persian Experimental Music volume 2, un secondo volume, come dice qui il titolo, abbastanza chiaramente, che va a prendere, a farci conoscere la musica più sotterranea proveniente dall'Iran. È una scena sorprendente, aggiungo io. Il primo volume fu splendido, uscito credo 1 o 2 anni fa. E allora ci ascoltiamo Shanin Sohuri con Discord e Force Ignore con Lams. Altro artista di questa compilation dedicata alla musica persiana, lui è Forsignor. Chiaramente non sappiamo nulla di questi artisti, quindi i più interessati potranno andare in giro per il web e cercare notizie. Thank you. due ottimi artisti hanno avuto il compito di presentarci questa antologia dedicata alla musica persiana, il secondo volume prodotto da Raffaele Pezzella attraverso la Next Plane Sounds Label. Ricordiamo anche la 8 Tower e la Zero K, la nuova avventura come etichetta sempre di Raffaele Pezzella, un Pezzella dunque ultra stacanovista che è difficile seguire, tantissimi gli album, gli artisti che lui ha scoperto e che ci ha fatto conoscere e che io ho fatto conoscere a tutti voi all'ascolto. Instancabile Raffaele, che ringraziamo ovviamente. Questi erano i sorprendenti Force Ignore con Lames, esempio veramente di elementi etnici e disturbante follia sonora. Buonasera a Jean-Claude Berthaud della Val d'Aosta, il buon Emanuele Fais e Pioggia d'Ambra, Lucia Cagliazza, Lupsi, ottima artista anche lei. Sentite che fascino etnico. Di compilation in compilation, eccola qua, F-Ear-Dis, apprezzata in disorder, e abbiamo cominciato a farlo anche in questo spazio, negli artisti e nei brani più in odore di industrial e di elettronica più, diciamo, radicale rispetto a ciò che mando in disorder. E quindi non a caso ci ascolteremo due grossi calibri, ossia Nars With Wound di Steve Stapleton, che peraltro aveva anche fatto la copertina del precedente Swanier di Coil. Di Nars With Wound ci ascolteremo Ship of the Dead e poi Deform di Philippe Shaw con Fear on My Hands. E dopo l'ottimo Steve Stapleton, naturalmente ottimo come Nurse with the Wound, eccolo qua, Deformity Filippi Show, Fear on My Hands. Parlando con Francesco Cornello di questa compilation F-Ear This, ricordiamo uscita in origine nel lontano 1987 a supporto della rivista anarchica attraverso Stella Nera, io rimasi sorpreso anche della ospitata, chiamiamola così, di Nars with Wound e Deforme, a sostegno di un'iniziativa dalla valenza politica, e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Due alti momenti queste due tracce di Nars with Wound e Deform, due progetti nati a cavallo tra gli anni 70 e gli 80 che poi hanno intrapreso strade diverse. I Nars with Wound sono rimasti nell'alveo della sperimentazione e Deform invece hanno più svariato e negli ultimi anni hanno privilegiato il terreno dell'EBM più radicale, anche del synth pop, eccetera eccetera. Filippi Show e Elian P, di quest'ultima non ho mai saputo il cognome, cosa significasse questa P puntata, magari qualcuno lo sa. E invece noi andiamo avanti, lo facciamo con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo con Noise Cluster. Questo era il primo lavoro di 3 anni fa, Planet of the Lost Dolls, uscito per la Lucesia, etichetta svizzera a noi carissima. L'efficacia uscirà dalle note di queste due tracce, The Chase e A Matter of Life and Death. What's that sound? What's that hissing sound? Der Hose ist los. Der Hose ist los. Lose my mind, seeing you crying.